9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, Oscar Giannino torna a salutarvi e ricorda che oggi tentiamo di approfondire i temi, i problemi, cosa fare per risolverli, di uno degli snodi fondamentali del sistema del trasporto italiano, del commercio italiano, della crescita italiana. Troppo poco si riflette sul fatto che senza porti efficienti, senza delle modalità infrastrutturali che li connettano a delle reti di trasporto ferroviario, autostradale, senza interporti nel loro retroterra che facciano il trasporto intermodale, è come stare con le luci spente praticamente. E stare con le luci spente significa non vedere e non essere in grado di operare, cioè significa essere bypassati dalle grandi correnti del traffico internazionale, innanzitutto delle merci, e questo è una cosa che noi non possiamo permetterci, anche perché negli anni alle spalle altri meglio di noi, soprattutto nel nord Europa, 20 anni fa, 15 anni fa, hanno posto le basi per un sistema portuale molto avanzato, molto concentrato su grandi porti con regole speciali innanzitutto di governo del territorio, della possibilità di realizzare infrastrutture, di concentrazione ovviamente di investimenti da parte di grandi imprese private terminaliste. Tutto questo gli altri paesi lo hanno fatto e noi abbiamo per anni tentato di combattere con quello che c'era, con un grande impegno di chi anima le autorità portuali, con continue denunce dell'arretratezza delle norme che consentono a chi sta in un'autorità portuale di fare poche cose, con scarsezza di risorse finanziarie, a maggior ragione in un paese in cui bisognava sempre anteporre, come giusto, l'esigenza del rigore della finanza pubblica e in cui altri forse erano anche più bravi ad assecondare, diciamo così, le richieste in cambio del politico e in cambio ottenere quindi risorse che le porti non hanno ottenuto. E, insomma, tentiamo di approfondire questo punto. Io invito tutti voi che ci ascoltate, che avete esperienze dirette, perché operate in un porto, perché vi scontrate con le difficoltà delle regole di operarvi, a chiamarci all'800 24 00 24, a cominciare anche da chi lavora nei porti, ci occuperemo anche di questo. Il loro numero si è molto abbassato, le loro condizioni di lavoro sono molto cambiate e oggi non sono più, diciamo, il problema che eravamo abituati a leggere anni fa sui giornali. Ricordate i tempi delle mitiche lotte dei camalli di Paride Batini, e il porto di Genova oggi è alle prese con tutt'altro ordine di problemi, invece, ancora una volta, problemi che derivano da una crisi. Ecco, fine della mia troppo sintetica e sommaria, ma comunque necessaria introduzione per chi proprio non ha una minima idea di questo problema, e questo significa che è giusto che ce ne occupiamo. E ora vi presento gli ospiti con cui tentiamo di approfondire fino alle 10 questo punto. Abbiamo innanzitutto con noi Francesco Nerli, il presidente di Assoporti. Buongiorno Nerli. Buongiorno. Poi abbiamo il senatore Luigi Grillo, del PDL, che è presidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato, che ha in mano oggi il progetto di legge di riforma che tenta di sciogliere i nodi irrisolti dei porti italiani. Buongiorno senatore Grillo. Buongiorno a lei, buongiorno. E poi il senatore Marco Filippi del PD, Commissione Lavori Pubblici, sempre Commissione Lavori Pubblici, Commissione Trasporti della Camera, voglio dire, e una voce per l'opposizione, perché il tentativo, tenteremo come sempre facciamo in queste trasmissioni, è quello di riflettere insieme in una maniera non troppo conflittuale, fisiologicamente giusta la conflittualità, ma non troppo conflittuale, perché qui si tratta di convergere su norme chiare, nuove, capaci di dare strumenti nuovi e risorse finanziarie nuove a chi sta nei porti italiani. Allora, presidente Nerli, cominciamo un secondo dalla fotografia della situazione. Rispetto alla crisi mondiale in corso, come se la battono i porti italiani rispetto ai concorrenti europei, soprattutto mediterranei, quelli spagnoli? Siamo riusciti a intercettare più merci, meno merci, e si può essere soddisfatti o meno? Ma dunque, partiamo da un dato: i porti italiani continuano a movimentare più merci dei porti spagnoli. Detto questo, non possiamo essere soddisfatti della situazione, perché le modifiche anche al commercio internazionale, e quindi ai traffici dati dalla crisi, creano e hanno creato molti problemi. Insomma, siamo di fronte anche ad alcuni cambiamenti delle rotte, dei commerci, appunto dei traffici, che creeranno ai porti italiani problemi che vanno affrontati subito con grande forza e che grande determinazione. Da questo punto di vista, lei dice, ce la siamo battuti meglio degli spagnoli. Da che cosa è dipeso, secondo lei? Ma dipeso probabilmente dal fatto che noi abbiamo un sistema plurale, diffuso un po' in tutto il paese, che ha un consolidato rapporto con molte linee anche internazionali e nel Mediterraneo, che quindi ha avuto, come dire, la possibilità di risentire meno sulle direttrici più domestiche a servizio dei nostri distretti produttivi rispetto a quanto non abbia fatto la Spagna, che aveva sviluppato un livello di, come dire, di traffici, di transshipment superiore al nostro. Ecco, questo credo sia una delle ragioni in fondo, ma poi anche perché nel nostro paese, voglio dire, c'è una specializzazione molto forte dei nostri terminalisti, anche della manodopera nei porti, oltre che di un armamento forte, in particolar modo all'interno dei traffici mediterranei. Quindi questo ha favorito su determinati traffici una certa tenuta. Oh, senta, noi eravamo abituati da un bel po' di anni, insomma, da quando soprattutto poi la Cina entra al WTO dall'inizio del 2000, insomma, a descrivere nei convegni, negli approfondimenti sui giornali, sui media, la realtà del traffico commerciale marittimo, che è la vera spina dorsale ovviamente del commercio mondiale, come una realtà in cui soprattutto il grande flusso dalla Cina, dal Far East, che poi passava da Suez e che bisognava tentare di aggiudicarsi nel Mediterraneo invece che andasse verso il Nord Europa, fosse la grande corrente, la grande sfida che bisognava riuscire a vincere, quindi con porti ben dragati, con fondali per navi di sempre maggior tonnellaggio e così via. E la realtà mondiale, con il blocco del commercio mondiale, inizia a fare vedere che questa grande corrente di traffico andrà a modificarsi nel tempo. Adesso è un po' forse troppo presto per dire quando e come davvero il commercio mondiale ripartirà davvero, ci sono primi segni da quest'estate, però di fatto la Cina, il Far East, si sta autocentrando su flussi incrociati, e i flussi invece verso da est verso l'ovest sono molto meno rilevanti. Questo che cosa può significare per i porti italiani? Ma guardi, significa, io, se mi consente Giannino, aggiungerei a questi elementi, cioè la caduta della domanda nei paesi avanzati, no? La crisi di fiducia, la caduta del commercio internazionale e così via dicendo, anche alcuni elementi più di fondo, più strutturali, come quelli per esempio dell'aumento dei costi di attraversamento di Suez, il rafforzamento della direttrice ferroviaria fra l'Estremo Oriente e l'Europa, la prospettiva dell'ampliamento del canale di Panama, se vogliamo anche la pirateria, insieme a quegli elementi hanno disegnato una diversa forza delle direttrici est-ovest. Quindi noi siamo di fronte ad un calo di quello che è il commercio fra l'est e l'ovest. In più si deve considerare che la Cina una parte degli introiti del proprio export ormai lo sta reinvestendo all'interno, e quindi tutto ciò porta ad una diminuzione di quelle rotte e di quei traffici. Allora quella sorte progressiva che si pensava fino a poco tempo fa per il Mediterraneo, che è l'unico polo centrale per i traffici fra est e ovest, non sarà più così, ci sarà un calo, una diminuzione e anche una modifica. Tant'è vero che noi stiamo osservando che di fronte al calo sulle rotte est-ovest stanno crescendo le rotte nord-sud, così come ormai è in pieno, come dire, in piena espansione una rotta diretta fra il sud e il sud del mondo, Cina, India, Sudafrica, Brasile, ormai non si fa non passando più dal Mediterraneo. Quindi queste modifiche ci devono portare a prendere le misure necessarie, che non sono uguali a quelle che avremmo dovuto prendere fino a qualche anno fa. Presidente Grillo, iniziamo a introdurre con un po' di attenzione a chi non ha detto i lavori a casa e deve essere messo in condizione di capire. Rispetto ai nodi accumulati da anni, ai ritardi, diciamo così, dei poteri attribuiti a questi particolari enti che sono le autorità portuali, la riforma che voi avete state conducendo avanti al Senato, che state tentando di condurre anche in maniera bipartisan, a me pare, quali maggiori nodi tende a sciogliere? Ma noi partiamo dall'analisi di ciò che è successo dal 94 ad oggi. Il sistema portuale italiano ha fatto sicuramente passi avanti rispetto a 15 anni fa. Il mondo è cambiato il mondo dei trasporti marittimi, sono cambiati gli equilibri economici, politici, mondiali. I porti italiani hanno necessità di essere in assoluto più efficienti per essere in grado di calamitare traffici, e recuperare a livello di portualità e di logistica ciò che la globalizzazione farà venire meno in molti settori tradizionali del nostro sistema produttivo. Per rendere più efficienti i porti nella loro gestione, noi abbiamo primariamente fatto proposte mirate a modificare la governance, quindi la crescita dei poteri in capo al presidente dell'autorità portuale, la possibilità del presidente di decidere in una logica di presidente manager, la definizione di compiti precisi affidati per competenza ai comitati portuali, a noi ci pare una cosa necessitata. E quanto poi alle risorse finanziarie, che approfondiremo, essere uno dei punti insomma di maggior punto di dolenza dei porti, che si dice nella riforma? Ma il ministro Matteoli, parlando all'assemblea dei sopporti, ha motivato il ritardo con cui stiamo procedendo su questa riforma, perché è bene dirlo, sono anni che il Parlamento sta discutendo di modificare la normativa nel 94, ha giustificato questo ritardo dicendo: questa riforma ha senso se introduciamo concretamente elementi seri che possano dare gambe al principio dell'autonomia finanziaria consacrato nella finanziaria del 2007. Cioè, nel 2007 venne introdotta l'autonomia finanziaria per le autorità portuali, però non vennero individuate le risorse e neppure lo schema all'interno del quale questa autonomia finanziaria si sarebbe dovuta concretare. La proposta mia, in quanto relatore del provvedimento, concordata con il governo ovviamente, quindi, è di retrocedere nell'interesse delle autorità portuali il 5% dell'IVA che viene incassato attualmente dallo Stato centrale a seguito della movimentazione delle merci nei porti in entrata e in uscita. Ovviamente questo è un inizio, nel senso che noi avevamo la necessità di sfondare concettualmente su questo piano, nel senso di introdurre un elemento di certezza in modo tale da consentire alle autorità portuali, avendo appunto la certezza di questa entrata, di organizzare finanziamenti e quindi a seguito dei finanziamenti concessi dai istituti bancari di organizzare mutui e con quelle certezza di risorse pagare le rate. Adesso stiamo discutendo con i colleghi della Commissione, e fermo restando questo 5%, e stiamo discutendo come far arrivare questi denari alle autorità portuali. Ora, la prima versione, secondo alcuni colleghi, risente un po' di una logica centralistica, vediamo nei prossimi giorni. E questo adesso vedremo, perché c'è anche un problema naturalmente su tutti i temi che ineriscono questo settore di competenza concorrente tra Stato e Regioni. Ma io inizierei, vado subito poi dal senatore Filippi, al quale devo anche una scusa, perché presentandolo mi sono confuso. Senatore, mi scusi. Nessun problema. Buongiorno a lei. Volevo che subito, mi sono confuso e preciso, perché lei appunto è componente della Commissione Lavori Pubblici del Senato, io la confondevo con un collega invece della Camera, Commissione Trasporti, quindi mi scuso tre volte con lei, con chi ci ascolta. E andiamo subito ad alcuni ascoltatori che, come non avevo dubbi, iniziano a telefonare, a porre immediatamente i problemi concreti rispetto ai quali voi dovete dare delle risposte. Quindi cominciamo subito ad ascoltare e poi andiamo dal senatore Filippi. Silvio, che ci chiama dalla provincia di Cuneo. Prego Silvio, buongiorno, ci dica. Buongiorno, mi sono stupito di sentire questo tema oggi. Oi boy, perché? Però devo dire che casca proprio a fagiolo. Ma perché si è stupito, se posso chiedere? Ma no, perché effettivamente non si parla mai di porti. Ma come vede, quindi abbiamo fatto bene. Prego. Io ripongo la mia stima in lei, ma vedo che non è mal riposta. Ascolti, ma adesso al di là di questo, io faccio il cioccolatiere e sto importando in giro per il mondo cacao nei vari paesi del mondo, e adesso sto importando 80 kg di cacao dallo Sri Lanka. Sono dei campioni con un valore di circa 100 euro mal contati. 610 euro tra tasse, balzelli, balzellini e tutto per lo sdoganamento, a parte il viaggio. Ma è mai possibile che ci debbano essere spese, cifre folli? Perché lei calcola che per 100 euro di prodotto sono 610 euro, 24,42 di tasse doganali, il resto sono nelle tasche degli spedizionieri che sembra siano degli intoccabili. Non è che magari i porti italiani non funzionano perché quelli che hanno la patente per operare nei porti magari fanno gli orchi invece di fare concorrenza e poter essere stimolanti per le importazioni. Pesante accusa da parte di Silvio, provincia di Cuneo. Vediamo ancora Flavio da Torino e poi diamo la parola a Filippi e poi al presidente Nerri. Flavio da Torino, qual è la sua esperienza invece? Buongiorno innanzitutto, ma la mia esperienza deriva dal fatto che lavoro per un'azienda appunto di Torino che importa circa dall'estremo oriente 150 container all'anno che vengono sdoganati presso il porto di Genova, ed è una testimonianza di totale inefficienza del suddetto porto, che poi dovrebbe essere forse il principale d'Italia. Derivante dal fatto che ad esempio a Genova, se c'è una leggera brezza marina, non vengono più scaricate le navi, in quanto le gru sono vecchie gru datate ormai ancora su gomma e che quindi hanno dei problemi a scaricare i container in sicurezza se c'è del vento. E soprattutto la dogana, se piove, non esce a doganare, con formazioni di code interminabili che fanno ritardare l'arrivo dei container presso le aziende, che ci fanno perdere dei soldi perché spesso noi utilizziamo delle cooperative in aggiunta al nostro personale per scaricare i container, costi che poi assolutamente non ci vengono. Posso farle una domanda? Nella sua esperienza, la responsabilità di questa disorganizzazione, dei mezzi arretrati, dei tempi lunghi, degli turni di lavoro mal distribuiti, sta sul terminalista privato che agisce in calata oppure sta nell'organizzazione della parte pubblica del porto? Ma per quanto riguarda l'arretratezza del macchinario utilizzato, presumo che sia per quanto riguarda la parte privata. È ovvio che la lentezza dei processi di risanamento ricade esclusivamente sull'apparato pubblico, non ci sono dubbi, perché che un doganiere non esca a sdoganare i container solo perché piove, c'è brutto tempo, insomma, mi sembra veramente una cosa allucinante. Bene, grazie anche a Flavio da Torino, questi due flash, sui quali torneremo più direttamente naturalmente con il presidente del Supporti Nerli, ma intanto, senatore Filippi, dal suo punto di vista, c'è la possibilità, in che tempi, di convergere? Il presidente Grillo ci diceva, c'è un nodo innanzitutto istituzionale, un presidente manager, più poteri attribuiti a chi sta nelle autorità portuali, c'è un nodo che riguarda l'autonomia finanziaria, diamogli il 5% delle risorse fiscali che vengono originate dai porti, glielo diamo in un regime progressivo di qua magari al 2011-2012, ma che consenta da subito, se andiamo in fretta ad approvare questa norma, alle autorità portuali di andare a rendere bancabili, cioè immediatamente scontabili dalle banche, questo provento certo futuro, in maniera tale da avere più risorse, visto che da anni non gliene diamo. Su questi due punti, ma su anche tutti gli altri, soprattutto sulla possibilità di evitare conflitti con le regioni, che sono uno dei punti dolenti del settore, dal suo punto di vista, a nome dell'opposizione, che dice? C'è la prospettiva di un intervento finalmente convergente e un pochino efficace? Ma, ovviamente sui tempi ci vorrebbe la sfera di cristallo, cosa che non ho, per cui mi esento da fare previsioni in questo senso. Io in premessa devo sicuramente, come dire, dare un giudizio positivo sul gesto che ha fatto il ministro Matteoli, un gesto che trovo, come dire, anche importante rispetto al clima che a volte in Parlamento si registra, che è stato quello di fornire alla Commissione un documento di indirizzo ampiamente condivisibile e ha messo a disposizione sostanzialmente le strutture del Ministero, al relatore, al Presidente, ma in generale alla Commissione, per, come dire, arrivare ad un testo unificato. I due testi fino ad oggi presentati erano quello mio e quello del Presidente, del Senatore Luigi Grillo, e che erano sostanzialmente il portato del lavoro delle due precedenti legislature, perché della riforma della legge 84 è praticamente ormai due legislature che ne parliamo e questa è la terza, per cui vi è in qualche modo, come dire, una sorta di dovere. Aspetti, senatore, la interrompo dopo questo tributo a Matteoli. Ricominciamo da lei, ma c'ho la pubblicità obbligata. Eccoci tornati in studio, Oscar Genio torna a salutarvi con i suoi ospiti, ci stiamo occupando del problema dei porti, come rilanciarli, come cambiare le regole, come attribuire loro più risorse finanziarie. Avevo interrotto il senatore Filippi che aveva detto, beh insomma il ministro intanto ci ha dato un quadro d'insieme, non capita spesso. Non capita spesso, e dicevo non capita spesso soprattutto il fatto che mette a disposizione gli uffici ministeriali per concertare una riforma che parta ovviamente dal Parlamento. Dicevo che erano depositati e sono depositati disegni di legge mio e del senatore Grillo che sono il portato delle due precedenti legislature. Credo sia da apprezzare sicuramente anche il metodo di lavoro che abbiamo intrapreso in commissione, e questo do atto al Presidente, un metodo di lavoro che è trasparente, che ha conosciuto diversi rimaneggiamenti e che continuamente viene messo in rete, a disposizione, quindi viene monitorato negli aggiustamenti, negli affinamenti che progressivamente viene fatto, e soprattutto ci accomuna una volontà comune, che è quella di concludere un percorso che è iniziato ormai, come dicevo, da due legislature, e arrivare, come dire, a una sintesi opportuna, utile soprattutto per i porti. Noi partiamo da un giudizio positivo sulla legge 84-94, una riforma che ha funzionato, che ha consentito lo sviluppo dei traffici, che ha consentito comunque un'infrastrutturazione assolutamente necessaria, anche se ovviamente non ancora sufficiente, e sostanzialmente ha consentito anche una liberalizzazione del lavoro a banchina, ma una liberalizzazione regolata. Gli elementi che sono contenuti, almeno ad oggi, nel testo unificato, e che non è ancora ovviamente quello conclusivo, a mio avviso sono elementi, alcuni particolarmente positivi, alcuni ancora da affinare. Noi guardiamo con assoluto interesse sicuramente alla normativa che guarda a completare il processo di autonomia finanziaria, perché riteniamo indispensabile che i porti abbiano quelle dotazioni finanziarie finalizzate all'infrastrutturazione che in questi anni hanno avuto in maniera davvero molto residuale rispetto alle risorse stanziate sulle infrastrutture. L'altro elemento a cui guardiamo con interesse è sicuramente la volontà di procedere ad una semplificazione delle procedure di pianificazione. Non è più pensabile che dalla progettazione di azione di un piano regolatore portuale passino 10-15 anni prima che oggettivamente sia carta spendibile. Bene. Riconosciamo la necessità di una semplificazione, una maggior funzionalità della governance portuale, con una distinzione tra il ruolo del Presidente dell'autorità portuale e il Comitato portuale. Avvertiamo due elementi di criticità. Il primo elemento è soprattutto nel rapporto con le regioni, perché la materia portuale è una materia concorrente, per cui il livello di concertazione anche politica fino ad oggi in qualche modo, come dire, non si è attivata in maniera assolutamente adeguata. Il ruolo delle regioni è assolutamente indispensabile per concertare misure di pianificazione che ovviamente siano snelle, siano più rapidi, ma ovviamente siano di assoluta tutela rispetto alla pianificazione. L'altra questione che guardiamo con particolare attenzione e con particolare delicatezza è ovviamente le nomine che riguardano i presidenti delle autorità portuali. Nel momento in cui si rafforza i poteri del presidente dell'autorità portuale, cosa giustissima, ma in qualche modo si maschera o comunque si sottende la volontà di superare una procedura concertativa tra regioni e governo, con sostanzialmente una nomina da parte del governo, questo, come si capisce bene, diventa... Bisogna stare attenti, insomma, al prepotere governativo. Abbiamo sentito anche l'assessore Cascetta, appunto. Sì, che è coordinatore degli assessori dei trasporti delle regioni. Benissimo. Allora, io ho ancora due ascoltatori che pongono problemi concreti, quindi poi li giriamo poi immediatamente al presidente Nerdi. Abbiamo Andrea da Alessandria. Prego, Andrea. Sì, buongiorno. Io lavoro in una compagnia di spedizioni, quindi uno spedizioniere marittimo. Innanzitutto risponda un po' ai nostri ascoltatori di prima che ha detto che siete degli esosi. Il discorso delle autorità del porto è un vaso di Pandora, perché poi da lì si vanno ad aprire tanti argomenti. Per esempio, prima l'ascoltatore ha parlato di quello che produceva cioccolato, che ha importato una piccola partita, quindi un gruppage marittimo, dallo Sri Lanka in Italia, e ha pagato 600 euro per gli sdoganamenti. Bene. Innanzitutto bisogna dire che bisogna dire a chi compra in Italia di guardare bene i termini di resa, perché probabilmente quel cliente lì ha pagato ha comprato CIF, quindi ha lasciato in mano di decidere il trasporto dove ha comprato al suo fornitore dello Sri Lanka. Bene, il fornitore dello Sri Lanka palesemente non ha pagato le spese di trasporto, perché quello che sta succedendo nel mercato delle importazioni, soprattutto per i groupage con le rese prepagate, quindi dove il nolo dovrebbe essere pagato fino al porto di arrivo in Italia, non viene pagato. Dalla Cina c'è un nolo in import di meno 180 dollari. Quindi cosa succede? Succede che il cliente che compra a Shanghai, ok, è convinto di comprare fino al porto italiano, mentre invece dove compra il fornitore prende 180 dollari per mandargli la merce. Ho capito, questo quindi la sua tesi è: state attenti compratori, perché massime di questo periodo non si copre fino al processo finale, quindi poi scoprirete nel porto che colui da cui avete comprato vi ha un po' raggirato, se ho capito bene, tradotto, perché termini tecnici per chi non si occupa di queste cose portuali sono naturalmente un pochino da spiegare a chi è a casa. Io ringrazio l'ascoltatore, poi abbiamo Ubaldo da Milano, prego Ubaldo. Buongiorno, io mi occupo di una filiale di una società giapponese, sì, qua a Milano, mi occupo della logistica. Noi giornalmente spediamo in Giappone, paesi Far East, prodotti alimentari, wine and food, ma noi, quindi io praticamente quello che guardo io sono le quotazioni dei vari spedizionieri. Sì. Il fatto è che noi la maggior parte delle volte preferiamo spedire dalla Francia che dall'Italia, perché? Per questione dei costi, perché le quotazioni dei trasportatori italiani sono più elevate in Italia che in Francia, e questo va a discapito anche della competitività. E quindi voi passate per quale porto? Noi andiamo utilizziamo uno spedizioniere che ha una filiale in Italia, una filiale anche in Francia, e parliamo con la filiale francese dello spedizioniere e non quella italiana, proprio a causa dei costi alti. Questo sia per l'export che per l'import. I costi verso l'Italia di spedizionieri italiani sono molto più elevati rispetto ai costi di spedizionieri extra italiani. Bene, noi sappiamo anche che in Italia esiste un problema generale di efficienza del sistema dei trasporti e un problema di troppe piccole piattaforme logistiche in concorrenza rispetto a grandi paesi che hanno fatto anni fa grandi scelte di concentrare magari in un ex monopolista pubblico o delle poste in alcuni casi, o le ferrovie, in un grande polo logistico nazionale. Noi non abbiamo fatto nessuna di queste scelte, abbiamo più di 40 piccole piattaforme logistiche, questo comporta sovrapprezzi e soprattutto grandi inefficienze. Mario da Genova ancora. Prego Mario. Pronto? Sì, mi sente, dica. Buongiorno, ascolti, io conosco così per lavoro mio e per lavoro di mio figlio le realtà portuali, e a parte che essendo di Genova ovvio, il porto è tre quarti, ma insomma. Secondo me, dunque, Genova, se non ci sono dei cambiamenti radicali, è destinata a terminare la sua attività portuale per motivi particolari. Lei sa che il presidente dell'autorità portuale, dopo lo scandalo che c'è stato con una nuova componizione dell'autorità con magistrati in autorità, sta bandendo delle gare molto importanti per delle calate del porto. Ma ci sono già delle opere in corso da anni a Genova che sono sempre stato oggetto di dispute, di blocchi dei lavori. Ma dice, Genova non ha un collegamento con la città e con retroterra. Collegamenti ferroviari ce ne sono più uno, in un tunnel che quando c'è alta marea oppure si riempie il Piune Polcevera è inagibile, ma il fatto stesso che all'interno del porto esiste un'azienda ferroviaria diversa dalle ferrovie italiane, dall'RFI così, e che non hanno mai trovato un contatto, la dice lui, non c'è possibilità di caricare dei treni. Grazie Mario, lei tocca un punto importantissimo, sono felice che l'abbiate fatto direttamente voi, perché lo avrei girato a Nerli adesso. Io lo interromperò a un certo punto, poi riprendiamo Presidente Nerli, perché ci sono le informazioni strade tra due minuti. Non dimenticate, quando lamentate che nel porto non ci sono i treni, che non dipende dalle autorità portuali, perché il problema è che se Trenitalia non glieli porta, non glieli può portare praticamente nessun altro. Presidente Nerli, come ha visto abbiamo toccato moltissimi temi, da quelli della riforma a questi buttati sul tavolo dagli ascoltatori che operano, c'è chi dice le spedizioni costano troppo, c'è chi dice però state attenti anche voi, c'è chi dice io preferisco passare dalla Francia. Quindi random, inizi pure. Ma vorrei iniziare da questa giusta osservazione fatta dall'ultimo ascoltatore che è intervenuto, Mario da Genova, perché ha colto uno dei punti critici del sistema portuale, che è il collegamento dei porti con le reti ferroviarie, stradali e gli interporti. Cioè, uno degli elementi di criticità che fa anche lievitare i costi del trasporto nasce da qui, da questa rottura di continuità e rottura di carico che in troppi porti italiani ancora non ha trovato una soluzione. Ma qui, come diceva giustamente lei Giannino, non dipende dai porti, i porti non fanno le ferrovie, anche se sento da qua e là che chi si occupa di altre infrastrutture dice che cosa dovrebbero fare i porti, ma mi sembra francamente un approccio sbagliato. Noi abbiamo chiesto proprio all'Assemblea di Assoporti, al Ministro Matteoli e all'amministratore delegato delle ferrovie Moretti, di riaprire un tavolo per capire, per fare un attimo una mappatura delle esigenze, delle relazioni fra i porti e le città. L'ascoltatore diceva, se Genova non ha una via diretta con la rete ferroviaria, il problema non lo risolveremo mai. E noi sappiamo che a Genova c'è il problema della Gronda, che è precedente al problema del Terzo Valico, che sono tutte e due aspetti fondamentali per creare una piattaforma dei porti dell'arco ligure che sfondino verso il nord Europa. Quindi può anche darsi, come diceva l'altro ascoltatore del One and Food, che gli convenga andare in Francia. Io credo che si tratti non di grandi quantità, cioè di decine di migliaia di container, perché magari un trasportatore che ha una logistica migliore, sia pure essendo francese, riesce a fargli costi inferiori. Eccoci tornati per quest'ultima parte in studio. Ci stiamo occupando del problema dei porti italiani. Avevo interrotto il presidente del supporto Francesco Nerli, gli ridò la parola e una preghiera anche, perché abbiamo molte telefonate. Per esempio c'è Donatella da Milano, che non faremo in tempo a mandare in onda, che ci dice che importa dal Giappone, un suo fornitore olandese è scandalizzato dalle spese doganali che si registrano al porto di Genova rispetto a quello di Rotterdam. Ma quanto è più pesante il fisco italiano rispetto a quello dei nostri paesi concorrenti sulle cose portuali? Tra le altre cose a cui doveva rispondere, prego Presidente Nerli. Ma guardi, stiamo a questo punto, a parte il fatto che a Genova ormai si stanno sperimentando pratiche di sportello unico doganale, io suppongo che molti problemi che si sono avuti negli anni passati in un rapporto ormai stretto fra autorità portuale e dogane si stiano superando. Io starei attento a fare paragoni con i porti del nord Europa sul piano doganale, a meno che noi non sogniamo scarsi controlli, e minore verifica sulle merci importate a partire dagli aspetti di sanità marittima. Perché vede, mentre noi siamo più sicuri su questo di loro? Sicuramente, mentre nei porti italiani sono 10 anni che ci sono gli scanner, l'Unione Europea ha fatto un accordo con i paesi del sud-est asiatico per il nord Europa, per i porti di Amburgo e di Rotterdam, ma solo un paio d'anni fa, quindi da allora si sono avuti controlli un po' più rigidi. Quindi io starei molto attenti, qui c'è sempre sono molte le valutazioni da fare, ecco, perché altrimenti poi ci lamentiamo che arrivano merci contraffatte o arrivano merci avariate. C'è un maggiore controllo nei nostri porti, sembrerebbe strano, ma è davvero così. Senta, tra i tanti punti, due mesi fa si parlava a un certo punto dell'ipotesi di un intervento governativo massiccio, mettere un paio di supercommissari nei maggiori porti italiani e tutto il resto distinguere. Come siamo messi? C'è ancora questo rischio? Ma guardi, non lo so, io credo che mi auguro, per il bene comune, che questa idea del supercommissario ormai sia stata riposta in un cassetto, ma per un motivo molto semplice, perché quella proposta è anche intrisa di ignoranza istituzionale perché economica. Lì si prefiguravano dei commissari che decidevano a chi dare le concessioni, a chi toglierle, come modificare i piani regolatori dei comuni, i piani strutturali delle regioni e delle province, che potevano fare i valichi, i porti, i retroporti, le ferrovie. Io con una battuta mi sono permesso, non vorrei offendere nessuno, dire che mancava solo di poter nominare anche vescovi sul territorio, poi il quadro era completo. Qui in questo paese non mancano gli strumenti istituzionali per fare coordinamento di area vasta e noi siamo convinti che per l'arco ligure, per l'alto adriatico, ma io penso anche a tutto l'asse del corridoio 8 che riguarda da Bari fino a Varna, la possibilità attraverso la programmazione negoziata di fare intese fra gli enti locali, le regioni, le autorità portuali ed anche soggetti privati per poter intervenire sulle infrastrutture necessarie. Dopodiché un più forte potere di coordinamento fra le autorità portuali, ma dato alle autorità portuali, possa essere lo strumento di gestione di queste piattaforme di area vasta. Sono necessarie, bisogna sfondare verso i mercati del nord Europa, ma non si può avere una risposta che ci porta, me lo fa dire così Giannino, ad un'idea tardo-sovietica che francamente a me fa un po' senso. Beh, devo dire che poi è particolarmente apprezzabile che poi, insomma, io conosco il presidente Nerli, ognuno ha la sua storia, ma definire tardo-sovietico con attribuendolo alla maggioranza da parte di uno che è una storia di sinistra. Non la maggioranza, perché diciamoci la verità, più che la maggioranza su questa ipotesi stanno muovendo forze esterne. Ah, ecco. Perché le porta avanti chi guida gli aeroporti, chi fa autostrade, chi fa pantaloni, ma non vengono queste proposte dal governo. Io non, per ora non meglio, ho visto dal governo. Meglio quindi, così. Meglio e, così. E che contrastano con i principi di concorrenza nel mercato e per il mercato. Io francamente, per i quali a parole tutti ci diciamo pronti, tranne che poi naturalmente magari chi si candida ad avere più concessioni poi non è molto favorevole. Per dirla in poche parole, se ci sono delle banche che ritengono di poter intervenire sulle infrastrutture, mettano a disposizione le risorse, ma non pensino che si decida dove si fanno ponti, gallerie, aeroporti e retroporti nei consigli di amministrazione delle banche. Queste si decidono fra enti locali, il governo che deve avere un piano strategico e le autorità portuali che sono i soggetti. E su questo punto inevitabilmente concluderemo poi con una domanda al senatore Luigi Grillo, al presidente Grillo, che insomma è a cavallo anche delle questioni bancarie, se ne è occupato molto spesso, molto bene. Un ultimo ascoltatore, Giovanni da Napoli. Prego, in fretta però, la devo pregare. Prego, dica. Buongiorno, dottore. Sento solo una mia testimonianza. Spesso acquisto dei beni, diciamo, di poco conto sul web. E è mortificante poi a volte vedere che i rivenditori spediscono in tutto il mondo, escluso l'Italia. Escluso l'Italia. E la sua dipende da che cosa secondo lei? Per i balzelli delle tasse doganali, per i pacchi smarriti e per tutto quant'altro. Giovanni, le devo dire questo. Guardi, il fatto che se uno prende un libro su Amazon o su una piattaforma web di quelle che consegnano tutto il mondo e loro sono restii a consegnare in Italia, non dipende dai porti in questo caso, perché questi ci sono fior di studi accumulati, dipende dal fatto che da noi il tempo medio di consegna, quindi dipende dal sistema della logistica e dei trasporti, non dai porti, il tempo medio di consegna è molto più elevato che in altri grandi paesi, perché appunto abbiamo un problema di concorrenza sui trasporti, di efficienza sui tempi, eccetera eccetera. Questa è la ragione generale, e in questo ampio comparto c'è anche un punto che riguarda i porti, però è un problema specifico, no? Quindi secondo me, mi permetto di risponderle io, ma in questo caso non è ben centrato, i porti non c'entrano quasi niente su quello che ha detto lei. Senatore Grillo, in conclusione, allora, sui tempi di questa riforma come la pensa, e le banche alla fine come vede che risponderanno alle esigenze dei porti? Dunque, i tempi, io ho la fondata speranza che siano ravvicinati, nel senso, stiamo limando un testo su cui realizzare un'ampia convergenza, andare in commissione e, se possibile, chiedere la legislativa, responsabilizzando e coinvolgendo i colleghi della Camera per una riforma che interessa di tutti, che sia approvata al più presto, perché i porti sono un asset strategico fondamentale per la ripresa del nostro paese. E le banche, come è noto, sono forti in Italia, sono le più forti d'Europa, hanno meritato sul campo un riconoscimento che ci arriva a livello mondiale, financo il Fondo Monetario Internazionale ha detto che abbiamo il sistema più stabile, che merita rispetto da parte di tutte. Le banche oggi dispongono di liquidità, anche se soffrono i condizionamenti di un'economia reale che è oggettivamente in crisi, e quindi il problema vero delle banche è che i soldi che hanno già imprestato non gli ritornano indietro, per dirla in termini molto sintetici. Però credo che faranno adeguatamente la loro parte, nella logica di coinvolgere operatori privati per realizzare investimenti anche nei porti. Allora, io la devo interrompere qua. Al pubblico di Radio 24 è molto critico verso le banche, che considera come coloro che oggi non stanno dando credito. Io anche l'impegno che ho con loro è quello di continuare a stimolare e a sferzarle. Certo è che nel passato, nei secoli alle nostre spalle, le banche italiane, le antiche banche italiane, avevano dato grande attenzione ai problemi delle infrastrutture portuali e dei traffici commerciali e marittimi. Bisogna tornare a che sia così. Io ringrazio il presidente Francesco Nerri di Assoporti, il senatore Marco Filippi del PD della Commissione Lavori Pubblici del Senato e il presidente della Commissione, il senatore Luigi Grillo. Ringrazio Paolo Corleone in regia e Gloria Guerrera in redazione. L'appuntamento a domani. Mm-hmm.